prazer. A nostalgia do Brasil, Brasil está ali, Itália aqui. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ci hanno detto che loro sono più patrioti, più decisi, più cattivi, che la loro guerra ci urrua, ci annienterà. Nessuno come noi sa rialzarsi quando sembra finita, quando sei un passo dal KO e ti devi aggrappare le corde. È la nostra storia che ce la insegna, è la nostra storia che ce la insegna. Fallo questa volta è ancora, anzi, di Balotelli, è cartellino giallo per Balotelli, il secondo del mondiale se la scolpita. She's falling in, but I said it's okay. I'm falling in, but she said it's okay. Mette fallo Marchisio e prende anche giallo. No, rosso! Venticinque dalla fine. Non riesce a passare il pallone, poi Suarez, Buffon! E noi abbiamo Buffon! E noi abbiamo Buffon! She's falling in, but I said it's okay. Un morso ancora! Ancora un morso! La morso ancora, forse! La morso di nuovo! Ma incredibile! Ma incredibile! E ti fanno male i denti anche! Avrei preso l'osso! Avrei preso l'osso! Pallone ancora verso il centro, salta le tre! Come al solito Godin, noi non vogliamo, noi siamo l'Italia, noi non siamo nati per perdere, non siamo nati per perdere, noi non vogliamo. She's falling in, but I said it. Grazie a Franco Piantanida per questo montaggio, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schettoni in redazione. Ho bisogno di amici oggi perché mi sento un po' solo, però io non sono come Prandelli, quindi non ritratto quello che ho detto, continuo ad essere ottimista perché siamo usciti dal mondiale, è vero, ma Prandelli si è dimesso come dovrebbe essere sempre, quando una buona squadra, e continua a pensare questo, con 4 stelle sulla maglia, torna a casa al primo turno. Prandelli non ha tuttavia saputo resistere alla tentazione dell'ultimo alibi: non rubo i soldi dei contribuenti. Ebbene, io nella storia del calcio italiano, almeno negli ultimi 40 anni, non ricordo un commissario tecnico che è stato trattato con i guanti come Cesare Prandelli. Detto questo, di sicuro il contratto di Prandelli era perfettamente in linea con il mercato, anche se oggi mi rendo conto è il giorno del massimo godimento di tutti i moralisti. 800 24 00 24, vi aspetto qui. Sì, in maniera impopolare, anche per difendere l'indifendibile Balotelli, pessimo mondiale il suo, però se tu vai con un giocatore, credi in un giocatore, non lo umili alla fine del primo tempo, consegnandoti all'Uruguay, perché la mia idea non è cambiata rispetto a quella che ho espresso fino a alla tarda sera di ieri, per quelli che hanno avuto la compiacenza di seguirci nella lunga diretta, che con Giuseppe Cruciani e Barisoni e Capuano e tutti quanti e Pardo dal Brasile e Ricci abbiamo fatto. Ebbene, io continuo a pensare che l'Italia ieri abbia giocato un buon primo tempo con equilibrio, con una formazione che l'opinione pubblica aveva, e non le sue idee, aveva suggerito al commissario tecnico, che poi ha fatto i cambi dettati dal vento, cioè quelli che tutti avrebbero voluto vedere. Ha certamente nell'intervallo della partita dato retta alla vecchia guardia, che gli diceva: no, quello lì non gioca più, quello lì di davanti non gioca più, non lo vogliamo più vedere. E allora, fuori Balotelli, dentro Parolo, e lì abbiamo cominciato a perdere la partita, perché abbiamo dato all'Uruguay un segnale preciso: signori, abbiamo paura. Cosa credete, che i difensori centrali dell'Uruguay non siano stati contenti nel vedere uscire dal campo un giocatore che magari per fama usurpata ma poteva mettergli paura? Io sono convinto che l'Italia abbia cominciato a perdere la partita e il suo mondiale. 800 24 00 24 il numero verde. Possiamo aggiungere altri argomenti, ne parleremo per tutto il programma con diversi ospiti, ovviamente. Possiamo aggiungere subito, prima del traffico, un altro argomento. Prandelli giustamente va via, perché un allenatore che fallisce in questo modo, un commissario tecnico che fallisce in questo modo dopo il quadriennio, è giusto che si dimetta, ed è giusto che si dimetta anche il presidente federale Abete, secondo fallimento negli ultimi due mondiali. Ebbene, Prandelli ha trasmesso incertezza alla squadra e ha dato certezze agli avversari nell'intera gestione del suo mondiale. Adesso vi aspetto anche per dirmi che, e vi sconfesserò, per dirmi che è colpa di un arbitro che si chiamava Moreno, o che era colpa del caldo contro la Costa Rica, o continuiamo a usare il paravento di mille scuse e di mille alibi. Se volete, io non ci sto. 80024 0024, traffico, poi di nuovo qui. E visto che il progetto tecnico è di mia responsabilità, ho detto loro che rassegno le mie dimissioni. Tutti convocati. Diciamo che prima del rinnovo del contratto c'era una volontà di continuare su un progetto, la volontà di continuare su una strada che in questi quattro anni ci ha portato a camuffare i problemi del calcio italiano e a limitarli forse. Dopo quel contratto non so cosa è successo in Italia, ma tutto ad un tratto ci siamo trovati di fronte a delle aggressioni verbali. Siamo diventati all'improvviso come un partito politico e noi ci siamo sentiti persone che, secondo questa critica, rubiamo i soldi ai contribuenti. Il nostro presidente sappiamo benissimo che non prende una lira, io non ho mai contrattato il mio contratto, quindi questo è anche un motivo per cui do le dimissioni. Non ho mai rubato i soldi. Ho sempre pagato le tasse, vado a testa alta, se ho sbagliato tecnicamente do le dimissioni, ma non mi volevo sentire dire di rubare i soldi ai contribuenti. Grazie. Insomma, io credo che la nazionale italiana abbia bisogno di un condottiero, cosa che Prandelli non è mai stato. Brava persona, certamente, bravo allenatore, certamente, molto adatto a raccogliere consenso popolare. Ma non un condottiero, perché un condottiero deve essere anche quello che è pronto a prendersi la responsabilità di tutte le sue idee senza scuse. Poi vi spiego anche il significato di una maglietta che porto addosso rispetto al morso di Suarez e a quello che penso, a quello che serve per vincere un mondiale e per vincere nello sport. Tanto c'è un mio amico che è il Barbone Supremo, ve lo presento, poi lo faccio anche parlare. Non vi dico chi è, si chiama il Barbone Supremo. Ciao Paolo. Ciao Carlo, ciao. Felicissimo di essere qui. Ah. Per la legge del tutto può succedere sono tornato. Per la legge del tutto può succedere. Ma in linea c'è Fabrizio Biasin di Libero, che è il vero grande imputato del fallimento italiano e delle dimissioni di Prandelli a causa di un'intervista di cui parlammo quando venne pubblicata. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao, buongiorno a tutti, però non datemi tutte queste responsabilità, mi sento in colpa poi. No, che in colpa, ce le prendiamo tutte. Allora, Prandelli ha fallito perché con la Costa Rica faceva caldo, perché ieri c'è stato un arbitro contrario e perché Libero ha fatto quell'intervista in cui si diceva che guadagnava troppi soldi, cosa che secondo me non è vera, ma te l'ho anche detto, perché secondo le leggi di mercato il contratto di Prandelli era perfettamente in linea con quei parametri, e Prandelli è il commissario tecnico, l'ho detto prima, che meglio è stato trattato negli ultimi 40 anni almeno di storia del calcio italiano. Posso andare anche più indietro, ma facciamo gli ultimi 40. Guarda, su questo siamo perfettamente d'accordo, sono d'accordo su tutto quello che hai detto, però diciamo anche che io francamente non me la sento di sparare a zero sul CT, cioè noi abbiamo fatto un'analisi in questi mesi di quello che è successo, non ci quadrava la questione contratto, non ci quadra tuttora, cioè la sparata di ieri di Prandelli a eliminazione avvenuta non ci è piaciuta. Però io credo che si debba alzare un po' il tiro, cioè le responsabilità di Prandelli sono evidenti e clamorose, ha sbagliato a tutti i livelli, ma io credo che ci siano responsabilità molto più ampie, non solo di Abete, ma di tutta un'organizzazione che purtroppo non ha imparato niente dal 2006 in avanti. E secondo me presto verrà fuori qualcos'altro, cioè, io credo che Prandelli purtroppo paghi il fatto di essere una brava persona. Per ricoprire il ruolo di CT molto spesso non bisogna essere delle brave persone. Bravissimo, è quello che penso anch'io, però bisogna essere dei, lo dicevo prima, dei condottieri, degli allenatori che hanno una propria linea, una propria filosofia, anche a costo di andare contro tutti. Perché io ho l'impressione che tutte le incertezze di Prandelli si siano rovesciate su questa squadra. Questa squadra è andata lì senza sapere chi avrebbe giocato, come avrebbe giocato, quali sarebbero state le scelte e perché si è cambiato in corsa. Abbiamo provato ad immaginare fosse una sorta di pretattica, una versatilità che poteva essere un pregio. Invece abbiamo scoperto il bluff era solo una grande incertezza. E poi io leggo vari messaggi come: godo come un porco nudo per il tuo amico Mario Balotelli, ovviamente dimettiti anche tu, mi scrive Luca. No, io non mi dimetto, perché dovrei? Io continuo a pensare quello che pensavo prima, e cioè Balotelli è il nostro attaccante di maggiore talento, ieri è stato umiliato e abbiamo cominciato a perdere la partita, ha giocato male, siamo d'accordo, ha preso un cartellino giallo da idiota come spesso gli accade e siamo d'accordo. Però se contiamo su quel giocatore andiamo fino in fondo con lui, perché abbiamo cominciato a perdere quando abbiamo regalato quel nulla che avevamo in attacco all'Uruguay. Guarda, io condivido gran parte di quello che hai detto, temo che però le incertezze dimostrate sul campo ieri e nelle partite precedenti siano frutto di scelte fatte prima di decollare per il Brasile. Quando io ieri vedo Cassano entrare nel secondo tempo e giocare da prima punta, penso che lui non l'abbia fatto neanche all'oratorio quando aveva 7 anni. Sì. E allora mi domando, quando Cesare Prandelli ha fatto le sue convocazioni, probabilmente ha sbagliato i calcoli, forse doveva portare una punta in più, forse addirittura 2 punte in più e portare qualche centrocampista in meno. Aquilani è stato uno spettatore non pagante, probabilmente ci sono state sono stati fatti degli errori, anzi certamente sono stati fatti degli errori in sede di convocazione, e io credo che siano questioni che poi verranno fuori nei prossimi giorni, perché per come la vedo io Prandelli aveva un giudizio su Balotelli molto preciso prima ancora della partenza, anche perché ce ne aveva parlato lui. Balotelli non lo vedeva di buon occhio, però l'ha portato, l'ha fatto giocare, ha puntato tutto su di lui. Questa cosa mi suona strana. In che senso? Nel senso che probabilmente non è semplice ricoprire, come dicevo prima, il ruolo del CT, e tante volte arrivano pressioni da tutte le parti. Lo so, però se Fabrizio, se fai commissario tecnico devi avere le spalle larghe, e di quelle pressioni devi anche infischiartene, perché se andavi a discutere con Lippi delle sue scelte, dei suoi giocatori, ti prendevi delle brutte risposte sul naso, e ti prendevi un confronto dialettico che però è sempre stato molto onesto. Questo vale anche per, ovviamente, per Berzot, è inutile ricordare tutto quello che è successo nell'82, ma anche nel 78, le polemiche che si erano scatenate, gli insulti per esclusione di Pruzzo e di Beccalossi, insomma la nostra storia è questa. Guarda, il problema è torniamo, che i CT devono avere le spalle larghe, non devono essere in balia. Ok, vogliamoci tutti bene, dai, facciamo le cose tutti insieme, non si fa così. Infatti torniamo al punto di partenza: per fare il commissario tecnico non bisogna essere solo dei buoni allenatori, anzi non è proprio sufficiente, bisogna essere in grado di reggere a 1000 pressioni. Esatto. Il problema è che il primo a non reggere queste pressioni è stato proprio il nostro allenatore, e l'abbiamo visto nelle scelte che ha fatto in Brasile. Io voglio cominciare a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. Agostino, provincia di Monza, buongiorno. Sì, dirigente, buongiorno. Buongiorno. Intanto è un piacere, perché è un onore parlare con lei. Niente, no, sto ascoltando quello che state dicendo con Biasin, che tra l'altro apprezzo. Grazie. Ritengo sostanzialmente che non si sa per quale motivo arcano, alla fine la politica e il calcio siano sempre un po' lo specchio della società. E cosa voglio dire? Non c'è niente di che... arcano, non c'è niente di arcano. Vabbè, dai, sono semplicemente i due argomenti che tra l'altro si intrecciano molto spesso, più trasversali che ci siano nel nostro paese, il nostro strano paese. Sì, però voglio dire, allora un CT, come stavate dicendo, viene pagato anche, come dire, il giusto, se la vogliamo mettere con quanto diceva rispetto alle leggi del mercato, per fare delle scelte che abbiamo detto, possono essere anche impopolari, eccetera, eccetera. Poi in base a queste scelte viene giudicato. Prandelli non le ha fatte, come stavate dicendo voi, si è portato dietro Balotelli, che comunque è sempre il signor alibi, nel senso che se va bene, va bene, vince il gruppo che ha saputo domare Balotelli, se va male comunque la colpa ricade sempre su di lui, e questa è un po', come dire, la condanna di questo giocatore. Certo, il sentimento comune, caro Agostino, è che è quello che ho detto prima, cioè c'è molta gente in questo paese soddisfatta, per non dire felice, del fatto che Balotelli abbia fallito. Beh, però ad un certo punto, gente, questo ragazzo deve anche essere messo davanti alle sue responsabilità. Questo ad un è certo indubbio. Punto, o sei un campione o non lo sei. In questo momento è metà. È la metà del fisico e del talento che possiede. Probabilmente non arriverà mai a completarsi, no? Perché non è più giovane, perché 24 anni per un giocatore non sono pochi, perché le prove fallite cominciano a essere moltissime. Poi perché c'è un equivoco di fondo, Balotelli non sarà mai in nessuna delle sue squadre un leader tecnico e un leader emotivo, quindi se gli si vuole dare questo ruolo si è destinati al fallimento in partenza. Dica. Certo, voglio dire, se Prandelli fa la scelta di portarlo, ed evidentemente ne ha discusso con la vecchia guardia, perché dubito che non lo abbia fatto, è stato scelto di portarselo, è stato scelto di puntare su questo giocatore, non puoi a metà partita, nella partita più importante, poi decidere che la vecchia guardia aveva ragione e io mi tiro indietro, lo tengo fuori, perché altrimenti sbaglia lui e anche la vecchia guardia. È quello che sto cercando di dire, ma poi soprattutto un allenatore la considerazione a Fabrizio Biasin, un allenatore giustamente per dinamiche di gruppo deve tenere conto di ciò che la vecchia guardia pensa, però un allenatore non può fare quello che la vecchia guardia vuole, perché anche l'esclusione di Cassano, sappiamo bene, per lungo tempo nei confronti di Cassano ci sia stato un ostracismo da parte dei senatori di questa nazionale. Ebbene, è giusta la dialettica, Fabrizio, però non devono comandare quelli all'interno dello spogliatoio. Li ascolti, giustamente, ma poi fai quello che pensi tu. Un allenatore deve saper imporre le sue scelte, deve andare dritto per la sua strada anche a costo di sbattere contro un muro. Purtroppo in questo mondiale noi abbiamo visto troppe volte l'allenatore dar retta all'opinione pubblica, poi cambiare e tornare sulle sue decisioni. Quando scegli una strada e vai in fondo a quella, di sicuro non puoi arrivare a vincere, a trionfare. Doveva sbagliare con le sue idee, invece ha sbagliato con le idee di tutti quanti, comprese le sue. Questa cosa è imperdonabile. L'ultima cosa ti chiedo, Fabrizio, nelle varie cose che non ti tornano c'è anche un logo di un noto marchio di abbigliamento sportivo che è sponsor della nazionale e anche di Balotelli? Beh, senza stare a citare il logo che tutti Puma, lo dico, okay, non c'è problema. È evidente che per tutti quelli che sono i campioni in vetrina ci sono anche queste pressioni. Il problema è che quando le pressioni sono su Neymar, doppietta l'altro giorno, su Messi, gol in tutte le partite, su tutti questi giocatori, allora le pressioni diventano quasi bene per la squadra. Se invece Mario Balotelli è il primo a creare problemi, allora da una parte ci sono gli sponsor, dall'altra c'è un giocatore che non si rende conto che sta davvero perdendo non solo un'occasione, ma l'ultima occasione probabilmente della sua vita, e a questo punto diventa indifendibile. Non so cosa farà il nuovo CT, perché c'è anche questo interrogativo. Il futuro allenatore dovrà ancora puntare su questo giocatore? Chi potrebbe essere? Cioè, dovessi scegliere tu, chi sarebbe? I nomi che sono stati fatti sono, li sappiamo, Allegri, Mancini, Zaccheroni, che ha appena fallito con il Giappone, Spalletti, chi altri c'è? Non... Guarda, io credo che per una serie di questioni d'opportunità in questo momento sia molto avanti Mancini, davanti ad Allegri, diciamo. Io personalmente valuterei anche, so che è un nome che non piace a tanti, però secondo me per caratteristiche e per la carriera che ha fatto, anche Guidolin potrebbe essere uno dei pretendenti. Poi bisogna capire se è uno che riesce a reggere le pressioni. Ci ha dimostrato che ogni tanto non ce la fa, però è anche vero che uno probabilmente l'occasione la meriterebbe. Sì, Guidolin certamente per capacità tecniche, però ripeto, adesso serve un condottiero e il nome secondo me è quello di Roberto Mancini. Io se devo votare dal partito degli ottimisti, che oggi è in nettissima minoranza, ebbene voto Roberto Mancini. Sì, poi la domanda è: chi è che lo sceglie questo? Adesso vediamo perché si tratta. Ma in questo momento sarà determinante la figura di Malagò, che mi sembra uno che ha il carisma sufficiente per gestire la situazione. Adesso si tratta di capire chi va a sedersi sulla poltrona di presidente federale, poi molto velocemente scegliere un commissario tecnico, perché c'è da ricominciare a settembre con i giochi della nazionale. Ecco, diciamo anche questa cosa, perché adesso è venuto giù il palazzo, si sono dimessi praticamente tutti, però è anche vero che se ripartiamo poi gli stessi nomi, perché poi alla fine se guarda sono sempre quei 10 nomi che girano e si scambiano le poltrone, allora probabilmente rifacciamo lo stesso errore. Se dobbiamo davvero rinascere, rinasciamo con facce nuove. Grazie Fabrizio, abbraccio. Grazie a voi. Grazie Fabrizio Biasin da Libero. Ci fermiamo un attimo per la borsa, poi torniamo insieme. Pallone ancora verso il centro, esatto, le tre, Uruguay in vantaggio, ha segnato Godin. Come al solito Godin. Io andrò al Consiglio federale con le mie dimissioni irrevocabili, non perché senta una particolare responsabilità, lo dico con grande onestà intellettuale, relativamente a quelli che sono i risultati conseguiti, ma perché voglio dire, favorire un livello di riflessione sulle strategie future della federazione. Ho servito la federazione per molti anni, questo è il 7° mondiale a cui partecipo come dirigente federale, avevo già preso questa decisione, lo dico con grande onestà intellettuale, prima dell'inizio del mondiale, qualunque fosse stato il risultato. Allora, questo era il presidente federale Abete ieri sera. C'è stata la prosecuzione di questo discorso da parte del presidente del CONI Malagò, al quale adesso passa la palla su questo fronte. Questa notte l'ho sentito e lo chiamerò oggi. Sono due situazioni che uno accomuna, perché ovviamente c'è la coincidenza temporale, però secondo me sono molto diverse. L'ho detto anche alle persone che mi sono vicine, Giancarlo Abete secondo me si sarebbe comunque dimesso, cosa che peraltro mi sembra abbia già detto, comunque se qualunque fosse stato il risultato sul campo. Per ciò che riguarda Prandelli, gli fa onore perché è una persona seria, anche se è forte di un contratto, mi sembra di un biennio. Così ha parlato Malagò. 800 24 00 24, così parleranno tra poco Aldo, Dante, Marcello, Luciano da Pescara, insomma tutti gli ascoltatori che stanno chiamando, e insomma io vorrei che oggi più che mai fosse il loro giorno, fosse un happening radiofonico totale. Intanto io voglio chiedere però al mio amico Barbone Supremo, è un poeta, un profeta delle magliette, un guru degli irregolari, che maglietta farebbe per Balotelli. Abbiamo parlato di magliette sponsorizzate, griffate, Puma tra l'altro, mi suggerisce Franco Piantanida, che sponsor Puma, da sponsor Arsenal tecnico dal 1° luglio, sarà Puma, è lo stesso di Balotelli. Ci sarà un caso che il nome di Mario venga accostato a quello dei Gunners? Non so, sto divagando ed esagerando. Cosa vorresti scrivere per Balotelli? Ma l'unica cosa che mi viene in mente è: tu non capisci niente di calcio. Una frase che ha detto non so chi, ero sul divano con mio figlio, stavamo guardando la fine della partita. A Giancarlo Marocchi, ex giocatore della Juventus, tu non capisci niente di calcio. Esatto, secondo me quella lì con un bel pallone raffigurato. Sì, ci può stare. Negli ultimi tempi, anche perché non so lui quante cose abbia detto trascrivibili. Secondo me non capisci di calcio. Eccolo qua. Ecco. Fammelo sentire ecco. Ancora. Secondo me non capisci di calcio. Ecco. Vuoi questa? Questa, voglio questa. Ma ti piace Balotelli irregolare o no? Sì, allora, io non sono un grande stimatore di Balotelli, però penso che sia veramente un campione. Anche se, posso dire, ho ascoltato fino adesso tutte le telefonate, quello che dicevi. Abbiamo visto una nazionale talmente triste, talmente pasticciata dall'inizio, che in questo caso forse è l'unico in cui non bisogna prendere solo lui come... E ma lui è il grande, è il grande pupazzo da bruciare in piazza. C'è anche Camoranesi che a Univision TV Argentina ha dichiarato: credo fermamente che Balotelli sia un giocatore molto sopravvalutato dalla stampa e anche da chi lo allena. Mi fa veramente rodere il culo vedere qualcuno che in campo non si impegna come si deve. Non riesco a capire veramente quale sia il problema di questo ragazzo. Anche a me sarebbe piaciuto diventare figo. Non figo nel senso di figo, ma figo nel senso di giocatore, ovviamente. Ma successivamente mi sono reso conto dei miei limiti. Anche io ogni tanto ero una testa di C con quattro asterischi, non so cosa voglia dire, ma successivamente ho imparato dai miei errori. Tra l'altro Camoranesi ha detto anche un'altra cosa, che è questa: l'espulsione di Marchisio era giusta, le regole parlano chiare. Se fai vedere i tacchetti all'avversario è rosso, non c'è scampo. Sono sicuro che Claudio non voleva far male, ma l'arbitro non lo conosce e applica il regolamento. Il mio pensiero non è poi lontanissimo da quello di Camoranesi. Aldo, come sta? Salve, buona giornata a tutti, vi ringrazio per l'occasione di poter parlare. Mi ascolto spesso, prima volta che posso che parlo. Benissimo. Allora, io lavoro nell'ambito sportivo come preparatore atletico da tanti anni e mi va di poter spostare l'attenzione non tanto sull'allenatore o la federazione che avranno i loro problemi e le loro colpe, ma sui giocatori. È molto importante secondo me che gli organi di stampa che parlano, che divulgano insomma le notizie e gli accadimenti risaltino un atteggiamento secondo me negativissimo di alcuni giocatori, ma molto negativo anche per quanto riguarda la ricerca di scusanti. Questo è lo sport nazionale, Aldo, non solo in materia sportiva. Secondo me sta a voi, per esempio io lavoro sì come preparatore atletico, ma sono anche un educatore. Secondo me anche chi lavora nella stampa non può creare un personaggio come Balotelli, esaltarlo in quel modo, sopravvalutarlo in quel modo, perché non è un giocatore assolutamente, è lontano anni luce dai campioni che abbiamo visto e che abbiamo avuto in nazionale noi tanti anni fa. Non possiamo paragonare un Balotelli a un Baggio, non possiamo neanche paragonarlo alla resa che ha avuto un anziano giocatore come Luca Toni quest'anno in campionato, alla resa che lui ha avuto quest'anno al Milan, totalmente discontinua. Quindi di cosa stiamo parlando? Probabilmente si sta creando un personaggio. Ma un personaggio si è già, Aldo, un personaggio si è già creato per gemmazione spontanea, io credo. Non possiamo dire, se vogliamo essere onesti, che sia un giocatore, sia un giocatore privo di qualità, perché di qualità ne ha. È un giocatore molto particolare, certamente non, ripeto, non è e non sarà mai un leader. Anch'io ho seri dubbi sul fatto che possa diventare una superstar, che possa diventare davvero un campione, che possa diventare quello che, non so, Messi è per ora in questo momento, in questo mondiale per l'Argentina, e che prima non è stato, perché prima non lo è stato. Non potrà diventare il Cristiano Ronaldo, che in questo momento non sta facendo nulla per il Portogallo. Non potrà mai diventare probabilmente Suarez, che ieri ha fatto quello che abbiamo visto. E questo punto mi preme abbastanza, perché mentre da un lato non voglio accostare Balotelli a Suarez, sono distanti anni luce. Suarez è un giocatore determinante che può farti vincere le partite, l'ha fatto con l'Inghilterra, eccetera. È chiaro che in campo rispetto a lui Cassano, Balotelli e tutti gli irregolari che conosciamo sono dei bambini dell'asilo. Ieri abbiamo visto ciò che ha fatto, una cosa da pazzo furioso. Ebbene, il suo allenatore Oscar Washington Tabarez, che è un signore del un anziano signore del calcio mondiale, ha detto una cosa che lo rende estremamente impopolare ed indifendibile nei confronti di tutto il mondo. Questa: non vi la scena e non mi gusta che nadie hable por mí, non accetto consejos ni di uruguayo ni di ingleses, entiende? Y Suárez, además de los errores que puede haber cometido, es el blanco preferido de cierta prensa, de ciertos medios, que le da mucho más espacio, algún supuesto error que puedo haber cometido y no a las cosas por las que verdaderamente está en el fútbol. Allora, Suarez, Tavares ha detto a proposito di Suarez, ripeto, indifendibile, tra l'altro un giocatore che ha messo nei guai l'Uruguay, che verrà escluso dal mondiale, c'è già un procedimento in corso, giustamente gli daranno le solite tabotte di giornate di squalifica, 8 giornate di squalifica mi fa segno il barbone supremo. Ebbene, ha detto, questo è un mondiale di calcio, non di moralismo da due soldi. Non di moralismo da due soldi. È chiaro che è indifendibile, no? Per l'opinione comune, per quello che è il pensiero di tutti i ben pensanti. È chiaro che ha detto qualcosa di indifendibile il vecchio maestro Tabárez, però ha difeso fino in fondo il suo giocatore. Io oggi invece porto una maglietta che ho scritto un poco de cabeza e un poco de mano de Dios. Indovinate di chi è questa? 800 24 00 24, numero verde, traffico, poi torniamo. Dove l'abbiamo perso questo mondiale? L'abbiamo perso con la partita in Costa Rica. Noi in quella gara dovevamo far di più, avevamo le possibilità di far di più. Lì non siamo stati bravi nel cercare di costruire palle gol. Lì sì, il progetto tecnico non ha funzionato, nonostante i 4 attaccanti che avevo messo dentro. Quindi vuol dire che magari a certi livelli diventa importante non solo la tecnica ma anche la fisicità. Al termine della partita ho parlato con il presidente federale, con Demetrio Bertini, con Antonello Valentini. E visto che il progetto tecnico è di mia responsabilità, ho detto loro che rassegno le mie dimissioni, perché quando un progetto tecnico fallisce è giusto che ci si prenda la responsabilità. Allora, io mentre vi ricordo il numero verde 800 24 00 24, nella riserva indiana siamo in pochi, ma non sono solo. Sandro Mazzola ha dichiarato a Radio Radio: caro Barbone Supremo, senti questa, avrei voluto sentire il mea culpa dei senatori e non le allusioni a Balotelli. Giocate voi da soli in attacco. Esatto. Mettiamo quanti palloni sono arrivati giocabili? In 3 partite direi 4. Ho detto, tu stai là, combatti, sbattiti, fai quello che puoi, e così è andata. 7 linea 7, Dario Ricci, certo, ciao Dario. Eccoci qua, buongiorno da Itacurussa. Com'è il giorno dopo? Che succede? Il giorno dopo succede niente, nel senso che stiamo tutti facendo le valigie, e di fatto quello che a Sudafrica il giorno dopo era stata la conferenza stampa di chiusura, d'addio da parte del capitano di allora, Fabio Cannavaro, questa volta neanche c'è, perché per la Serie del Calcio tutto è chiuso, tutto è finito nella marcia dello stadio Las Dunas. E devo dire, forse magari si poteva comunque pensare a un momento di chiusura, sarebbe stato un pochino più elegante, così, Carlo, tu che dici? No, ne penso anch'io, ma poi ieri comunque nel sottopassaggio di quello stadio molte cose sono successe, molti stracci sono volati dentro lo spogliatoio. A riprova del fatto che Balotelli non sarà mai un leader, il suo comportamento di ieri è stato da bambino dell'asilo, questo lo sappiamo, è uscito da solo, cappellino in testa, è andato via e ha detto no, vieni qua che dobbiamo fare due chiacchiere. È andata così, no? Sì, è andata proprio così, anche perché c'è stato il discorso d'addio di Andrea Pirlo, tra l'altro ricordi, l'abbiamo raccontato in diretta proprio l'uscita di Super Mario nella zona mista, Cucchi in testa, Beauty Case, cappellino, e nessuna voglia di rispondere alle domande. Insomma, è stata un'altra prova deludente sia per il calciatore, sia per l'uomo, sia anche per il promesso sposo, che magari non ha scelto proprio la location più indicata, vista poi come è andata a finire. Sì, vabbè. Tutto questo è folklore, poi quello che è successo in campo l'abbiamo visto. Dante, Luca, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ascolti, allora, io forse ci sta che solo un bischero, capisco poco il pallone, però gli voglio fare 2 o 3 considerazioni. Allora, Prandelli e il presidente Avete si dovevano dimettere, non hanno fatto un gesto, si dovevano dimettere. Dovuto, uno. Sono d'accordo. Dovuto, punto. Dovuto. Seconda cosa, Balotelli. Finché ha un figlio, a un ragazzo si concede tutto, quel ragazzo non imparerà mai, continuerà a sbagliare, a fare i cavoli suoi, perché tanto sa che tutto quanto gli è permesso. Oggi una cosa, domani l'altra. Prandelli, però Dante, credo il credito è finito, credo, nei suoi confronti. Ah, ma giustamente, ecco, ma io spero che sia finito, perché per quanto riguarda le doti tecniche nessuno le discute, per l'amor di Dio, perché si vede che, però io voglio fare soltanto un appunto solo, ma la partita contro il Costa Rica, il gol che si è mangiato, su 100 centravanti 95 fanno gol. Quindi voglio dire, difendiamolo pure, è un ragazzo, però insomma qualche volta mi vado qualche volta, quando mi venivano mi dava anche dei calci nel culo. Ci sta tutto, Dante, su questa storia, quella gol Costa Rica l'avrebbero 95 su 100 l'avrebbero fatto, non sarei così generoso con la percentuale, certamente doveva fare di più, qualcosa di meglio poteva fare. Siamo lì a parlare però di quanti palloni gli sono arrivati nell'arco di tre partite per fare gol, qual è la percentuale di errore, magari Dario Ricci ha tenuto i conti. Delle palle gol veramente, no, le palle gol si contano sulle dita di una mano, Carlo, e l'osservazione tecnica che stai facendo è corretta, perché insomma è chiaro che a Super Mario si chiede molto, è chiaro pure che è una squadra che questo centrocampo di qualità doveva essere anche un centrocampo di guastatori, di aggressori. Non a caso personalmente ho sempre detto che visti i 23 che aveva convocato Prandelli, il nostro vero centravanti sarebbe stato Marchisio. Se lui avesse fatto 3 o 4 gol saremmo andati avanti nel mondiale, così non è stato, perché comunque i limiti tecnici del progetto, cioè un progetto così affascinante, di un'idea così stuzzicante, però potevano essere evidenti. Abbiamo visto invece quanto può far male anche con i denti, non solo con i piedi, chi un centravanti ce l'ha, insomma, se non addirittura due, è tutt'altra roba. Sì, poi un'altra cosa da sottolineare, che mi preme sottolineare, è che allora difesa 3 della Juventus, assetto, impianto difensivo della Juventus, si è rimesso in campo a furor di popolo. Ma resta domandarsi perché così tardi. Ieri la partita dei tre dietro contro due dei più forti attaccanti del mondo è stata più che perfetta. Cioè ieri abbiamo parlato nel pomeriggio di confronti uno contro uno individuali tra questi due mostri e i nostri difensori, e tu da dire ma ci fanno un mazzo così, invece ieri perfetta. Anche qui mi domando perché non prima, perché non dall'inizio, perché non in maniera istituzionale, diciamo così, perché non dire ok, questa è la difesa, si gioca in questo modo, non mille giri di mille lucubrazioni, ma magari certe volte giochiamo così, oppure cos'ha, oppure mettiamo palette in mezzo, oppure mettiamo Darmian a destra e quell'altra a sinistra, insomma è anche in questo e soprattutto in questo, in questa indecisione poi trasmessa a tutti, che Prandelli ha fallito in maniera clamorosa. Dario, grazie, ti abbraccio. Grazie a voi, ciao. Barbone Supremo, stai con me, Su qua. Perché io vorrei poi una maglietta su Suarez e il vampiro. Quello dobbiamo trovare una frase per Suarez. 800 24 0024, Bad Corner, GR, poi c'è Pardo e poi sono un sacco di altri ospiti, ma soprattutto voi. 800 24 0024. Torniamo insieme, 800 24 0024, il numero verde, Marcello e Luciano già in linea. Allora, è il vampiro per Suarez, oppure Suarez testimonial dell'Avis? Barbone Supremo, ti piacciono? Hai qualche altra idea? No, stavo giusto guardando le foto che ci sono sulla stampa dei due morsi. Sì. Dei precedenti, è veramente una maglietta scandalo. Per Prandelli, cosa si potrebbe scrivere? Tutti a catechismo? Tutti a catechismo, certo, oppure? Boh. Non si va, sembrava una gita parrocchiale. Sembrava un po'. Sì. Marcello, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Due o tre considerazioni veloci. La prima, ho visto dalle note trovare alibi, scuse, eccetera. Ma sarà un caso, ma le squadre sudamericane stanno andando avanti. L'approccio loro alle gare e soprattutto il loro nervo che hanno e la loro voglia di sacrificarsi li porta a avere risultati rispetto alla nazionale. Loro sbaglio, gente? No, non sbagliano, infatti. Che brutto suono. No, non sbaglia nei fatti. Si sta confermando anche un altro trend che avevamo evidenziato nei giorni scorsi, cioè quello del fallimento totale delle squadre africane. Adesso ci resta da vedere ancora qualche cosa, ad esempio l'Algeria a me è sembrata qualcosa di molto interessante, magari passa il turno, vediamo la Nigeria, ma le altre, anche Costa d'Avorio che ieri è riuscita a farsi eliminare. A questo proposito dice: allora, la nazionale italiana è scarsa, avremo un ottavo di finale e quindi avremo una squadra qualificata ai quarti di finale tra Grecia e Costa Rica. Avete presente la Grecia? Pierluigi Pardo, ciao! Ciao, anche se poi per il bene della collettività vi direi di chiamarmi su quel numero di Milano che loro sanno. Quello segreto, quello che conosciamo solo noi. Parlo a dirglielo, ma no, non mi ha sentito. Come va? Lo facciamo subito. Guarda, metti giù che chiamiamo sul numero segreto con il telefono rosso. Hai presente il telefono rosso? Arriviamo. Luciano da Pescara, buongiorno. Buongiorno a lei, Gianluigi Pardo. No, Pierluigi Pardo, adesso sto chiamando Pardo. Sul telefono rosso, un attimo solo, io sono Carlo Genta, dica. Sì, Carlo Genta, ecco. Ascolti, allora voglio dire una cosa che forse non è stata detta. Allora, io parto da un presupposto. Allora, la difesa della Juve, quindi il blocco Juve, i tre lì dietro più Buffon, è stata la difesa meno perforata del campionato, quindi gli sono dato fiducia. Poi, il problema è un altro, quando giochiamo con... lui ha giocato 3-5-2, è un 3-5-2 falso. Ha giocato con un grande casino, Luciano. È poi difficile andare a capire. Le voglio precisare solo una cosa. Io quattro calci ad un pallone gliel'ho dato, insomma, è qualcosa ne capisco. Allora, vuol dire, se noi giochiamo con due esterni che non sono due esterni, ma sono due esterni, ma sono difensivi. Due terzini, quindi, certo. Due terzini, che quindi abbiamo giocato a 5, non abbiamo giocato a 3. Sì. Lì devono giocare il gruppo Juventino, cioè il blocco Juventino, i tre Buffon, più a sinistra Circi e a destra quello dell'Asi, di cui ora mi sfugge il nome, Candreva. Candreva che tra l'altro era uno dei più in forma a vista la prima partita, stato uno dei migliori. Gente, ecco come si dà profondità alla squadra, e in mezzo ci erano Immobile e Balotelli pronti a ricevere i cross con qualche centrocampista che si inserisce di testa, che è anche bravo, tipo un Marchisio, cioè questa è la formazione. Non è che bisogna andare alle scuole serali per imparare queste cose. Alle scuole serali, no Luciano, è un rilievo che ho fatto anch'io, cioè difesa a 3 fino a un certo punto, perché poi semplicemente ha preso quelli che normalmente giocano come terzini, cioè De Sciglio da una parte e Darmian dall'altra, e ha detto ok, avanzate di 20 metri a centrocampo. In realtà 3-5 certamente era una squadra da paura, però torno a ripetere, nel primo tempo a me è sembrato un'Italia accettabile ed equilibrata, e so che il mio amico Pardo non è d'accordo, eccolo qua, ciao Pier. Ciao. Oh, che meraviglia. Ciao. Telefono rosso, è una meraviglia. Senti che voce. No, stavo tornando tra mille chiamate di ascoltatori sulla partita di ieri. Alla fine siamo partiti in maniera equilibrata, era una squadra accettabile. A me il primo tempo non è nemmeno dispiaciuto. Stavo dicendo che con Suarez e il Vampiro e Cavani i nostri difensori hanno vinto i faccia a faccia, i confronti diretti, e poi è stato tutto un gran casino, a cominciare dalla sostituzione / umiliazione del giocatore che più fa discutere oggi, e tu sai chi è. A questo proposito, Pier, voglio subito farti sentire ciò che è successo, sta succedendo ora in rete. È stata messa una cosa su Instagram da un tizio, questa frase: Mario, non sai dove è la questione? È che tu non sei proprio italiano, ritirati. Ecco. Sì. E poi c'è la risposta, no? C'è la risposta che adesso arriva, e io te la leggo, e la leggo a beneficio di tutti quanti. Piantanida me la sta mandando e adesso sentirete la risposta. Ce l'hai lì? Aspetta. sì, stiamo a cercare. Ce l'ho qui, ecco. Ce l'ho qui, la brioche. Tutti, anche Francesca Donelli qui al mio fianco. Allora, sono Mario Balotelli, ho 23 anni, non ho scelto di essere italiano, l'ho voluto fortemente perché sono nato in Italia, ho sempre vissuto in Italia, ci tenevo fortemente a questo mondiale, sono triste, arrabbiato, deluso con me stesso. Sì, magari potevo far gol con la Costa Rica, avete ragione, ma poi qual è il problema? Forse quello che vorreste dire tutti è questo: la colpa non la faccio scaricare a me solo questa volta, perché Mario Balotelli ha dato tutto per la nazionale, non ha sbagliato niente a livello caratteriale. Quindi cercate un'altra scusa, perché Mario Balotelli ha la coscienza a posto ed è pronto ad andare avanti più forte di prima e con la testa alta, fiero di aver dato tutto per il suo paese. O forse, come dite voi, non sono italiano, gli africani non scaricherebbero mai un loro fratello, mai. In questo noi negri, come ci chiamate voi, siamo avanti anni luce. Vergogna non è chi può sbagliare un gol o correre di meno o di più. Vergogna sono queste cose, italiani veri, vero? Beh, al di là di una sintassi così che ti devo dire, cioè io non allora sull'aspetto dell'italianità di Balotelli non ci sono dubbi. Che Balotelli sia italiano più di me, più di te, o comunque come te, come me, io su questo non ho dubbi, e questo aspetto, diciamo, pararazzista proprio va, dobbiamo sgombrare il campo come sempre. Sul fatto poi che il giorno dopo un'umiliazione di questo tipo, un esame fallito di questo tipo, un attacco da parte dei senatori della nazionale che ti hanno fatto capire che comunque hai sbagliato, uno scelga il web per rispondere a uno, cioè Balotelli avrà milioni di persone che tutti i giorni, milioni no, decine di migliaia di persone tutti i giorni su social network che gli dicono quanto è bravo, quanto è figo, e decine di migliaia che gli dicono quanto è sfigato e che se ne deve andare, ecco, come tutti i personaggi pubblici, lui ha l'ennesima potenza, quindi che il giorno dopo faccia questa cosa, io non gliel'avrei consigliata. No. Sono d'accordo, sono d'accordo con te. Da un punto di vista proprio suo di comunicazione, no. Ma la mia sensazione e il mio sospetto a questo punto, abbastanza inquietante, è che Balotelli stia diventando sempre di più soprattutto un personaggio mediatico che attraverso i social network alimenta, deve alimentare ogni giorno il dibattito su se stesso. Non voglio fare veramente il Freud da quattro soldi, ma insomma, se tu sei arrabbiato e ti rodi così tanto, oggi non hai voglia di stare a dire cose sul web, secondo me. Galliani, no, hai ragione da vendere. Lui doveva fermarsi ieri all'uscita, metterci la faccia e dire quello che pensava. Queste cose doveva dirle ieri all'uscita dal campo, non infilarsi le cuffie, mettersi il cappellino e andare via. Galliani ora ha detto: sembra sia uscito solo Balotelli. Non ho capito perché si critichi solo Balotelli, l'unico attaccante che ha fatto un gol, l'unico che ha creato azioni da gol, gli altri attaccanti non sono visti in campo, eccetera. Questa è la difesa d'ufficio di Adriano Galliani. Maurizio Crosetti, ciao. Eccoci, buongiorno, come va? Benissimo, tu? Benissimo, anche perché forse da domani non mi occuperò più di queste cose, di Balotelli, intendo dire, forse comincerà il mondiale di calcio, parleremo di giocatori veri, non di figurine. Figurine poi tra l'altro di quelle che non stanno neanche appiccicate sull'album, di quelle di quando eravamo piccoli, che provavamo ad attaccare con una strana pasta fatta di farina, acqua, e poi si storcevano tutte. Balotelli è quella roba lì, anzi possiamo dire, ma basta Balotelli. E basta Prandelli anche, però basta Prandelli e dimissioni, sì, però proprio non c'è dimissioni sacrosante, paragone, però, no, non c'è paragone, sì, naturalmente. Beh, dimissioni sacrosante, anche se insolite, perché qualcuno in questo paese che dica ho sbagliato e me ne vado, ragazzi, bisogna addirittura due dimissioni in mezz'ora è il record italiano di sempre, abbiamo messo il nuovo record mondiale, mondiale. Abete il primo democristiano che si dimette ai tempi di Erode, occhio ragazzi, questo è il record planetario storico. In Palestina c'è gente che si chiede com'è possibile, e Giorgio La Pira, tutti i nomi della DC dicono ma non è possibile, allora non era un democristiano, non era vero, c'è un revisionismo in atto, tu dici, c'è un revisionismo in atto. Sì, però, rivedere, però Maurizio, ora non era un burocrate. Allora, no, però il risultato, insomma, la logica dice, dopo un quadriennio arrivi lì da CT di una nazionale che ha 4 stelle sulla maglietta e esce al primo turno, le dimissioni possono anche essere dovute, no, al di là del fatto che non lo fa nessuno, non è un gesto consueto, eccetera, eccetera, ma è soprattutto il modo in cui sei arrivato lì e il modo in cui sei uscito. Perché Prandelli è arrivato totale, lì una totale confusione. È arrivato lì senza sapere nulla. Ha trasmesso alla squadra questo senso di insicurezza. Noi abbiamo provato a leggerla come capacità di evolvere, di cambiare pelle tatticamente. Una partita. In realtà era solo un gran casino. Non aveva le sue idee e i giocatori questo l'hanno capito. Io ho l'impressione che lui si sia un po' perso, cioè al di là delle partite, delle ultime scelte tattiche, c'è il Prandelli che sfilacciava il codice etico forzandolo, tirandolo come un elastico, il Prandelli, fatemi fare 7 secondi di moralismo iconografico, che va sulla copertina di Vanity Fair con quella posa lì, a me non è piaciuto, cioè non è Prandelli che ricordo io, che ho conosciuto io tanti anni fa quando era il migliore amico di Scirea, andavamo al campo, lo trovavamo lì, non è il Prandelli che ha cercato di costruire la nazionale intorno anche a un'idea, un sentimento di condivisione, di riconoscibilità, anche etica, no? Parole enormi, la patria, ecco, forse paroloni eccessivi, però insomma questo Prandelli non era più quello lì secondo me, e certamente non era una persona, un tecnico con le idee chiare, perché non puoi dire no, ma è la difesa 4, poi gioca con la difesa, ma è la difesa 3, poi la mette, no, le due punte insieme non possono e poi le mette, marasma fantozziano, però devo dire grande coraggio nell'essere così rapidamente lucido e nell'andarsene, ripeto, è una cosa che andava fatta ma che non succede mai. Anche se quella frase non rubo i soldi ai contribuenti poteva risparmiarsela. Sì, anche perché molti dei soldi che la Federcalcio butta dalla finestra sono soldi degli sponsor, per fortuna, Ricco, certo. Penso a Casa Italia, certo. A Casa Azzurri, questi baracconi che solo noi allestiamo nel mondo, perché guarda caso la nostra delegazione è sempre la più numerosa, guarda caso nani e ballerine li portiamo in giro a spese, spero private, ma qualche volta anche un po' pubbliche, soltanto noi. Certe cose gli altri non le fanno e soprattutto gli altri non hanno un movimento calcistico completamente sfasciato, incancrenito, sono i giorni di un ragazzo morto di stadio, in uno stadio completamente ostaggio della violenza, del razzismo, certo no, questo non è che di questo Abete sia l'unico colpevole, ma certo la Federcalcio ha assistito a tutto questo senza intervenire mai, cercando di salvare la poltrona, non accorgendosi che il sistema era ed è completamente allo sfascio, a cominciare dai campionati giovanili. Il calcio italiano è un luogo da rifare completamente, meno male se può servire a questo un'eliminazione contro l'Uruguay, ma sarà benedetta, cioè se questo non, è l'inizio del nuovo calcio italiano, benedetto Godin, ma non sarà perché siamo in Italia. Non sarà perché siamo in Italia, perché siamo già passati da questi momenti e queste cose le abbiamo già dette. Pierluigi, invece le parole di Buffone dei senatori ieri sera ti sono piaciute o non tanto? Beh, non mi sono piaciute, nel senso che certe cose dovrebbero rimanere nel chiuso di uno spogliatoio, quindi da questo punto di vista sono, se vuoi, un'uscita dal seminato, però sono parole, mi sembra, spontanee di un momento nel quale volano gli stracci. E Buffon, diciamo che queste parole se le può permettere perché ha una storia che parla alle spalle in un certo modo, e fra l'altro ieri ha fatto anche una grande partita, anche se contro Costa Rica un mezzo errore sul gol c'è stato, ma insomma non è da questi particolari che si giudica un giocatore. Io credo che quello che in qualche modo avevo percepito e che ti dicevo anche ieri quando mi chiedevi se fossi tranquillo o no, è che questo ritiro è andato male, questo ritiro sì. Non ha funzionato, sì. La squadra non è esistita. Credo che anche l'esperimento delle mogli al seguito non sia stata una grandissima idea. Lo spirito di gruppo è stato poco e sicuramente ci sono state delle figure nuove, giovani, strane al gruppo che non hanno aiutato. Chiaramente Balotelli è il primo indiziato, ma non è soltanto lui, insomma. Quindi io credo che ieri veramente abbiamo visto le due anime, le due facce di questa nazionale in questo sfogo di Buffon e De Rossi, che è chiarissimo destinatario numero uno. Ovviamente Balotelli non credo che sia soltanto lui, però insomma in generale, io credo che ci sia la differenza tra una vecchia guardia di giocatori che voleva togliersi una soddisfazione che aveva una mentalità di un certo tipo e altri. Questa è la percezione che ho avuto io. E poi dal punto di vista delle scelte, Prandelli ha fatto grande confusione, perché Balotelli è stato un totem indiscutibile, perché Cassano è stato portato, ma a quel punto se lo porti devi dargli la possibilità di, cioè, così non serve, diciamo la verità, così non serve per entrare in una confusione tattica di quel tipo, a fare addirittura la prima punta ieri. Non serve a niente Cassano, sinceramente. Cassano serviva se gli mettevi vicino una prima punta con cui giocare. Ma certo, non ci ha creduto e quindi non ha funzionato. E la difesa a tre. E quello che ti dico è che sono tutte cose che sono tutti segnali che tu hai trasmesso alla tua squadra e anche agli avversari questi, eh? Sì, no, ma io veramente sono mai come oggi combattuto e diviso, perché da un lato, anche attraverso le dimissioni, Prandelli ha confermato di essere, se non una grande persona, e questo rimane. Però la gestione di tutta questa vicenda è stata assurda. Chiamare Pepito Rossi va bene, ok, fai dei test, ma insomma tendenzialmente se lo chiami in qualche modo lo stai illudendo, e poi lo lasci a casa, poi porti Insigne. Onestamente, qualcuno mi vuole spiegare che senso ha avuto portare Insigne, qual era l'idea di progetto tattico? A questo punto anche lo stesso Cerci, cioè se il 4-3-3 era un piano B, lo dovevi fare, lo dovevi fare compiutamente. La difesa a 3 ci si è arrivati alla fine in maniera residuale, così sulla spinta dei senatori della Juve, e in effetti è andata meglio. Sì, Immobile e Balotelli non è una coppia, come provavo questi 2-3 giorni, certo. Dire. Non è una coppia, aveva ragione Prandelli e lo si è visto ieri. Ma il problema è che lui lo sapeva, doveva continuare su questa strada. La sensazione che ho io, e nessuno me la può togliere, che gira Maurizio Crosetti, è che la formazione della nazionale in questi mondiali l'abbiamo fatta tutti noi, no? L'hanno fatta i senatori all'interno dello spogliatoio, sì. Hanno un peso, ma non deve essere così predominante. E poi Prandelli ha fatto esattamente quello che volevamo tutti noi, è vero o no? Sì, e ha dimostrato quindi di non avere delle idee chiare, forse di non avere nemmeno delle idee, alla fine è andato in totale confusione. C'è una vecchia battuta che dice: mi stupisce la sua sicurezza nello sbagliare, no? E si dice a volte degli sciocchi che però hanno la coerenza di insistere nei loro errori e nello sbagliare sempre nello stesso modo, no? Voglio dire, serve una coerenza anche nell'errore. Lui no, cioè secondo me è un allenatore, deve avere un suo disegno, un suo modello di calcio in testa, lo deve perseguire fino alla fine e oltre, come ha fatto per esempio Lippi. Bravissimo. Se tu invece cambi ogni 30 secondi lo schema, gli uomini, lì vai in totale confusione. Bravissimo. E dimostri quindi lì di non essere all'altezza, è lì che è caduto Prandelli. Perfetto. La partita con Costa Rica è proprio il simbolo di tutto questo, con i 4 cambi di modulo in mezz'ora. Non farlo entrare Cassano, cioè se devi far entrare Cassano e poi dopo un quarto d'ora mettergli Insigne sulla mattonella di sinistra, che dove deve giocare lui, non lo far entrare, non fai entrare Cerci, fai subito il 4-3-3 con Insigne e Cerci se devi fare questo tipo di cosa, oppure fai entrare Cassano e magari gli metti Immobile vicino e giochi con un passatore tradizionale e un realizzatore tradizionale. Certo. Non si è mai vista, non abbiamo mai visto Cassano e Immobile in questo. Il miglior passatore, al di là delle difficoltà fisiche evidenti, Cassano ha fallito come gli altri, lo dico senza se, senza ma, tanto per essere chiari, ha fallito in maniera fragorosa. Però voglio dire, ha il miglior passatore del campionato, il miglior assistman del campionato e il miglior finalizzatore del campionato. Fammeli giocare mezz'ora insieme, dammi sta gioia. Sì. No, un'ultima cosa che volevo girare a Maurizio Crosetti, su come un allenatore, un CT della nazionale, deve anche andare contro il buon senso, no? Per avere la credibilità dei suoi, eccetera. Questa frase di Tabarez dopo il morso del vampiro. E quando questo è un mondiale di calcio, non un moralismo da due soldi. È chiaro che da uno come Tabarez, un vecchio maestro, non ti aspetti questa frase. È chiaro che ha fatto una brutta figura, però è altrettanto evidente che è andato fino in fondo a difendere il suo giocatore, che è un pazzo furioso. Beh sì, l'abbiamo detto prima, è anche la coerenza dell'allenatore quella di difendere, di battersi. Penso a personaggi come Trapattoni, come Lippi, come Mourinho, di cui siamo sempre lì a discutere, però lui sicuramente fino alla fine difende i suoi giocatori, poi magari gli scappa fuori onda, però sì. Insomma nel ruolo, nel momento pubblico no. E noi abbiamo alla fine, chiudiamo anche con questa ipocrisia, alla fine tattica, ideologica, di sistema, per cui Prandelli ci aveva spiegato che saremmo diventati la nazionale del gioco, propositiva, del palleggio, siamo andati a copiare in qualche modo, a cercare di emulare un modello morto nelle mani di chi l'aveva inventato, cioè il tiki-taka è... Ops, ho detto tiki-taka, ma nel senso del gioco e non di altro. Sono contento che sia finito, altro invece lunga vita all'altro tiki-taka. Però per quanto riguarda il gioco, andiamo a fare tiki-taka proprio noi e poi chiudiamo nello stesso modo di sempre, cioè puntando al pareggio, perché poi anche questa è una cosa da dire, no? Per necessità e non per virtù, siamo stati obbligati a gestire quella roba lì perché non saremmo riusciti a fare gol mai. Però allora non vai a dire per giorni no, noi giocheremo per attaccare, noi siamo la squadra propositiva, noi teniamo la palla, noi vorremmo comunque provare a vincere così almeno la pareggiamo. No, abbiamo fatto la solita figura di sempre, facendo finta però di essere diversi, ecco, è come quelli che vogliono insegnarti come si vive e poi però non sono capaci, no? Cioè, a quel punto è meglio un brutto esempio, sì. È un brutto esempio, lo sai come, subito, come lo riconosci, certo, sotto qualcuno che ti dica guarda, certo. Pirlo e Verratti sono diventati Xavi e Iniesta, ma in quale film? Anche perché Xavi e Iniesta, quelli veri, sono pure loro ormai quasi sì. una ceramica, una foto sulla lapide, no? Come si dice, una ceramica. E quindi nel momento in cui diventano due lapidi, due fotine, Xavi e Iniesta, i più grandi centrocampisti europei degli ultimi 15 anni, noi proviamo a scimmiottarli col giovane Verratti e col vecchio Pirlo. Ma dai, su. Grazie, Mao. Ciao, a presto. Grazie a Maurizio Crosetti. Pier, stai sul numero telefono rosso, ci fermiamo per la borsa, poi torniamo con gli ascoltatori. Are you happy now that the gods are dying? What do you dream of? Heston with omniscient beer. You should be happy now. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti. Chinese Pompeii and break my heart. Well, it's a broken smile, breaking their hearts, breaking their mind, my heart. Un morso ancora? Ancora un morso? La morsa ancora forse? La morsa di nuovo? Difatti la mia prima intenzione era la morsa ancora. Sembrava più un morso che una testata. La morsa di nuovo? Ma incredibile! Ma incredibile! E ti fanno male i denti anche! Avrei preso l'osso! E questo è il morso. Ma è chiaro, è netto, è stato che sia qualsiasi cosa valuta l'arbitro, purtroppo deve fischiare rosso. C'è anche una chiara simulazione dopo, perché sa benissimo di aver fatto qualcosa che non andava fatto. Però si tocca i denti, purtroppo sono episodi che condizionano la partita. Ma l'arbitro ha visto, aveva visto anche prima, ma se non c'è volontà. È rimasto il segno. Ma ora non so, no, se mi è rimasto il segno. Non è che mi ha cavato, certo. Ma no, certo. Di pelle, però il gesto è netto. Ma l'arbitro che cosa va detto? Visto che gli arbitri dicono tanto che si documentano dei giocatori, dovrebbero anche documentarsi, e sono episodi abbastanza chiari. Ma cosa ti ha detto? Che cosa vi ha detto l'arbitro? Non ha detto niente tutta la partita, l'indirizzo è stato chiaro, non c'era bisogno di parlare tanto. Molti assassini recidivi tengono dei trofei delle loro vittime. Io non lo facevo. No. No, lei se le mangiava adesso. Suarez è il vampiro, lui ce le mangia le vittime. Parlo a corollario, ci sono le dichiarazioni di Lugano, il capitano che abbiamo pontificato, sì, che abbiamo pontificato ieri, capitano non giocatore ieri dell'Uruguay, che ha detto Chiellini è un piagnucolone. Sì, bene. Bene. Tutto bene, bene, tutto bene. Suarez è una cosa incredibile. È pazzesco, questo è veramente, no, che poi ha, voglio dire, è chiaro che l'Uruguay lo perde il suo miglior giocatore, ma questo è da ricovero, secondo me. Pazzo totale. Senti, l'Uruguay, vabbè, non avrà Suarez, ma che impressione ti ha fatto nel complesso? A me non grandissima. No, siamo usciti con una squadra modesta. Modesta, vero? Che ieri, io guarda, ti dico, sinceramente mi aspettavo una sconfitta più netta ieri, nel senso io pensavo che l'avremmo subiti dal punto di vista fisico, invece devo dire la partita da un certo punto di vista mi ha quasi sorpreso in positivo, nel senso primo che, tempo, ma sì, ma anche al secondo, dai, cioè, finché sei stato 11 contro 11 è stata una partita Non è stata una partita di calcio, voglio dire, quindi considerando il fatto che teoricamente avevi due risultati su tre, poi non è stata una cosa così drammatica dal punto di vista della partita. L'aspetto drammatico è che poi non puoi cambiare passo, rimani in 10 su 11, rimani col cerino in mano dopo il gol loro e quindi torni a casa, insomma, e alla fine hai torto tu perché nelle ultime due partite hai fatto due tiri in porta contro Uruguay e Costa Rica, quindi sì. hai assolutamente torto tu, ma in realtà ieri è stata una partita abbastanza equilibrata contro una squadra scarsa. Una squadra media con due attaccanti importanti, con Godin che ultimamente tutto quello che tocca di testa la mette dentro sul calcio d'angolo e quindi non è un dettaglio. Per il resto è una squadra normalissima che pensavo ci mettesse sotto dal punto di vista del ritmo, invece non è mai stato ma io sono convinto che, ripeto, soprattutto nel primo tempo l'Italia la partita l'ha controllata e poi l'espulsione di... Si è molto romanzato su quest'arbitro Moreno. Il mio pensiero non è molto distante da quello di Camoranesi, che ha detto che l'espulsione di Marchisio era giusta perché, se fai vedere i tacchetti dell'avversario, è rosso, non c'è scampo. Interpretazione forzata probabilmente, però non la vedo come una cosa così scandalosa, se ti devo dire la verità. In una partita del genere di enorme equilibrio, l'intervento del genere per me al massimo è da giallo, ma non perché la partita era equilibrata, perché secondo me lo è in assoluto, maggior ragione in quella situazione lì. Cioè, è un episodio che ha pesato tantissimo sulla partita. Dai. Antonio Pio, provincia di Foggia. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere stato convocato. Grazie. Sono Antonio Pio Pace da Foggia. Benissimo. Senta, secondo me il vero problema tra i tanti problemi di Prantelli, tra le tante cose che ha sbagliato, è stata la preparazione. Perché gli altri correvano e noi passeggiavamo, e questo è stato un primo errore. Il secondo errore, tu dai fiducia a Balotelli, che per me non è un fuoriclasse, perché secondo me solo e semplicemente un buon giocatore, perché un fuoriclasse, oltre ad avere la tecnica e altre cose, deve avere soprattutto la testa, cosa che Balotelli non ne ha. Poi tu che fai? Fai un progetto con Balotelli al centro, lì ha sbagliato Prantelli ieri. Togli Balotelli e mi inserisce Parolo. Poi dici che giochi a tre. Ma chi un po' di calcio, chiedo scusa. Antonio, ha visto benissimo che noi non abbiamo giocato a tre, allora, perché noi abbiamo giocato con due esterni non erano esterni. Io e Pardo credo non abbiamo più le parole per rispondere, perché sono cose che ripetiamo da 24 ore. Da giorni. Senti Pier, ti presento un amico che oggi mi fa compagnia, è il Barbone Supremo. Buongiorno Pier, come va? Ciao. Tutto bene? Ciao, bene. Dammi una frase da scrivere su una maglietta. Cartolina dal mondiale. Tu Pier. Una frase da scrivere su una maglietta. Cartolina da questo mondiale. Ma adesso così non è che faccio, i pubblicitari li pagano, grafici di mondiale, Corcovado me ne vado, non lo so. Corcovado me ne vado, ma te ne vai? No, stai lì a raccontarci il mondiale. Io rimango tendenzialmente, diciamo, l'Italia, Corcovado me ne vado. Ci lavoriamo noi su questa frase. Salvador da Varese, buongiorno. Dimmi. Italo Uruguayo. Però tu ti hai fatto per l'Uruguay ieri. Italo Uruguayo ci sta. Quindi? Infatti. E mi sarebbe piaciuto che la squadra dell'Italia, se io avessi tifato per l'Italia, avesse messo un pizzico della grinta che ci ha messo l'Uruguay, che era nettamente inferiore come qualità tecnica e tattica generale, ma nel calcio non basta essere tante volte migliore, devi anche dimostrarlo. Non so se ne farei una questione di grinta, però a dire la verità, perché insomma non voglio dimenticare che una squadra tra Grecia e Costa Rica sarà una tra le prime 8 squadre del mondo, ed è per questo che io contesto l'assunto secondo cui questa Italia era così scarsa. Pier. Sì, guarda, è vero, c'è anche questa chiave, ma allora diciamo la verità, ieri la Grecia ha passato il turno al 93esimo su un calcio di rigore che non c'era. Nel calcio c'è anche questo. Poi, secondo me, noi siamo una grande nazione di calcio. Abbiamo visto un calcio orrendo nelle ultime due partite e quindi siamo giustamente ci facciamo il processo. E questo io lo considero un segno di maturità, perché se oggi stessimo a parlare soltanto dell'espulsione di Suarez o dell'espulsione di Marchisio, certamente non andremo da nessuna parte. Certamente. Detto questo, poi, insomma, onestamente, secondo me ieri la partita 11 contro 11 la porti a casa, adesso vai a giocare con la Colombia, dove magari ti asfaltano, perché qui sono 50 volte meglio di noi, però insomma fai passare la nottata, questa è la verità, secondo me. E poi per quello che comunque noi siamo, per il fatto di avere una serie di giocatori ancora magnifici, una generazione di giocatori magnifici, veramente ce la siamo giocata malissimo, e quindi è giusto che facciamo, che approfittiamo, come dice Crosetti, per trasformare questa pagina drammatica della storia del nostro calcio in un'occasione per fare pulizia, ripartire, snellire, togliere tutta una serie di sottobosco, no? che c'è attorno alla nazionale, allo staff tecnico. È vero che ci sono queste spedizioni con centinaia di persone, sai bene che cosa facciano, anche se poi mi viene anche da dire che mi pare che i conti siano in attivo, quindi alla fine questo è quello che conta. Però insomma, un tornare alle basi secondo me è una cosa utile, come in generale una cosa molto utile per il nostro calcio è prendersi un po' meno sul serio. Sì, però Pier, vedi che quando finì lo scorso mondiale, via Lippi, epurazioni e tutto quanto, e ci ricordi Baggio e Sacchi e Prandelli, che ha dato veramente qualcosa di fresco e di nuovo a questa nazionale, e ha fatto un cammino meraviglioso in avvicinamento e di conduzione dell'europeo, perché l'esperienza europea fu profondamente diversa da questa, come filosofia, come impostazione, come chiarezza di idee, come convinzione nella gestione del gruppo. Poi non so perché si è perso, però di fatto si è perso. Io mi tengo tutti i miei dubbi sul fatto che dopo questo mondiale cambieranno i nomi, cambierà qualche faccia, però non penso che sarà la rivoluzione questa uscita di scena. Un'ultima cosa, dimmi Pier, adesso il commissario tecnico chi lo fa? I nomi che girano sono quelli. I nomi sono quelli. Io credo che la soluzione più semplice sia Allegri. Sì. Oppure Mancini. Insomma, Mancini è un uomo abbastanza fuori dalle logiche della federazione, ma insomma potrebbe avere il pedigree giusto. Il sogno è Ancelotti, uno che non ha mai nascosto di voler fare un giorno il commissario tecnico, ma non credo che tu lo possa portare via dal lavoro che fa, per discorsi ovvi di budget, di stipendio, di forse anche di obiettivi. Chi glielo fa fare, detto insomma sinceramente, al di là dell'amore per la patria. E c'è l'ipotesi Spalletti. Spalletti per me è un grandissimo allenatore, veramente grandissimo, mi sembra molto un allenatore, cioè mi sembra poco un selezionatore, mi sembra uno che deve lavorare sul campo tanto, perché ha un tipo di gioco particolarmente alto, particolarmente bello, ma sul quale devi lavorare molto, per cui non mi sembra tanto uno che prende e che seleziona. Da questo punto di vista meglio un Minestraro, se mi passi la battuta, sì, no? Sì, meglio sì. Uno che arriva, fa sistema due o tre cose, però di carisma, perché però di carisma. Non è un semplificatore. Spalletti è un grande, grandissimo allenatore che gioca un bellissimo calcio, molto sofisticato, è un semplificatore. Quindi forse è un pochino meno adatto, non lo so. Poi i nomi sono questi. Io dico tra questi quello che mi piacerebbe di più, ma è una mia idea, Mancini, ma per i motivi che hai detto, e aggiungo il carisma e anche la capacità di spesso di gestire lo scontro, di non aver paura del confronto o dello scontro. Questo è il mio pensiero, almeno. Pier, ci sentiamo domani? Senz'altro. Baci, abbracci, ciao. Ciao Pierluigi Pardo. Di ricambi, che Pirlo è vecchio, che Buffon è vecchio, che Barzagli è vecchio, che De Rossi è vecchio, che Tizio è vecchio. Poi alla fine la verità è che quando c'è da tirare la carretta, i De Rossi, Pirlo, i Barzagli, Chiellini, Buffon sono sempre in prima fila, no? E per cui io penso che bisognerebbe rispettare un po' di più loro, non per quello che sono stati, ma per quelli che sono ancora adesso e per quello che rappresentano adesso in questo momento in Italia calcistica. E bisognerebbe incominciare a premiare e a dare i meriti giusti a chi se li merita, a chi se li guadagna sul campo, ecco, e non demeriti per sentito dire o perché qualcuno potrebbe o vorrebbe fare, ecco, perché poi quando si va in campo bisogna fare e non basta più potrebbe fare o magari farà. In campo bisogna fare. Però a me tornano in mente, mi ritorna in mente Sandro Mazzola e quanto ha dichiarato, vi ho riportato le parole. Avrei voluto però sentire il mea culpa da parte dei senatori, non soltanto ma noi siamo qui e facciamo il nostro e invece sono gli altri che noi ci siamo sempre. No ragazzi, non c'era nessuno di nemmeno di voi altri, secondo me, Marco, provincia di Novara, buongiorno. Sì, dottor Genta, buongiorno. Buongiorno. Grazie per la convocazione. Io sono, ecco, stavo esattamente pensando la stessa cosa e sono pienamente d'accordo con Mazzola, perché non basta avere giocatori che hanno rappresentato, che rappresentino qualcosa. Abbiamo bisogno di giocatori che facciano. E se siamo arrivati comunque in finale agli europei è grazie a Balotelli. Adesso che Balotelli sia quello che sia dal punto di vista umano e personale lo sappiamo tutti e nessuno lo discute, però dal punto di vista del gioco non credo che Balotelli potesse fare più di quanto ha fatto da solo là davanti. Allora incominciamo a parlare anche dei vari Buffon che si sono imposti su Sirigu, quando secondo me Sirigu avrebbe fatto qualcosa in più contro la Costa Rica. Parliamo dei Chiellini, parliamo anche del Piero, che per l'amor di Dio è stato un grande, ma anche lui era in nazionale perché faceva comodo, perché c'era qualcuno che lo spingeva. Sì, in nazionale faceva comodo, si spingeva anche da solo Del Piero, non è che avesse bisogno di spinte. Ma io ho capito il senso del discorso, non so se Sirigu avrebbe fatto, perché poi con i condizionali non andiamo da nessuna parte. Abbiamo questi riscontri, quello che dico io è che il mea culpa ieri sera doveva valere per tutti e invece mi è sembrato quasi un po' un chiamarsi fuori. Noi il nostro dovere, la nostra parte l'abbiamo sempre fatta, siamo qui campioni del mondo e dobbiamo sempre tirare la carretta noi. Ragazzi, se avete tirato non avete tirato benissimo anche voi, insieme a quegli altri. Fabio da Roma, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Allora, giusto un paio di considerazioni, alcune delle quali già le avete fatte. In questo mondiale mi sembra che sia successa una cosa diversa dal solito, nel senso che si dice che del senno di poi sono pieni i libri, però in questo caso forse anche del senno di prima. Io non sono un commissario tecnico, ma prima dei mondiali credo che fosse evidente a tutti, io l'ho scrissi anche sul forum di un giornale sportivo, che andare ad un mondiale con una punta che non è neanche una punta, diciamo così, d'area di rigore come Balotelli e senza nessuno che lo sostituiva mi sembrava, come dire, un azzardo tattico notevole. In un mondiale nel quale può capitare, come ci è capitato effettivamente, questa è la prima considerazione. Quindi secondo me le colpe di Prandelli sono notevoli. Il secondo punto, e sono assolutamente d'accordo con lei, i senatori dovrebbero fare un grandissimo mea culpa, perché quando Buffon dice ognuno si deve prendere le proprie responsabilità e poi le getta sui nuovi. Esatto, è questo che mi permetto di dire, anche se c'è chi mi vuole ricordare, non perde l'occasione, che sono un cretino, ma questo è perfetto, mi va benissimo e sono orgoglioso e felice di esserlo. Mio caro amico Barbone Supremo, ho un'altra maglietta per te. Walter da Cinisello, Italia ora guai. Ah, quella li mettiamo un po' lì. Ci può stare. No, il fatto è che adesso siamo tutti terribilmente depressi per essere usciti da sto mondiale. Dato che siamo abbastanza abituati, io so che adesso ci saranno un paio di giorni di grande buio, di grande depressione, e poi cominceremo a guardare gli altri, perché il mondiale ovviamente non è finito e io trovo che questo sia un mondiale bellissimo. Abbiamo ancora un giro di valzer e poi cominceremo con le eliminazioni dirette. Il mondiale secondo te lo vince chi? Buttali un nome. Tanto i pronostici sono fatti per essere sbagliati e nessuno è più bravo di me nello sbagliare i pronostici. Belgio. Il Belgio. Olanda. Lo vince un'europea. Un'europea. Un'europea in casa delle sudamericane. Sì. Io continuo a pensare che lo possa vincere. E io continuo a pensare che lo possa vincere l'Argentina in casa del Brasile. Oh, perché sarebbe... sono molto cattivo. Che un po' stronzo in questo, però sarebbe uno psicodramma, uno psicodrammone totale. Paese in guerra. Allora, è il momento che noi abbiamo magliette di tutti i convocati da assegnare anche oggi al migliore in campo, che è stato chi? Antonio Pio, provincia di Foggia. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere stato convocato. Grazie. Sono Antonio Pio Pace da Foggia. Benissimo. Senta, secondo me il vero problema tra i tanti problemi di Prantelli, sì, tra le tante cose che ha sbagliato, è stata la preparazione. Perché gli altri correvano e noi passeggiavamo. Sì. E questo è stato un primo errore. Il secondo errore, tu dai fiducia a Balotelli, che per me non è un fuoriclasse, perché secondo me solo e semplicemente un buon giocatore. Perché un fuoriclasse, oltre ad avere la tecnica e altre cose, deve avere soprattutto la testa, cosa che Balotelli non ne ha. Poi tu che fai? Fai un progetto con Balotelli al centro, lì ha sbagliato Prantelli ieri. Togli Balotelli e mi inserisci Parolo. Poi dici che giochi a tre. No, no, ma chi mastica un po' di calcio, chiedo scusa, Antonio, ha visto benissimo che noi non abbiamo giocato a tre, perché noi abbiamo giocato con due esterni che non erano esterni. E domani partiamo con il televotone, però, su chi vince il mondiale, che io ho già delle proposte. Argentina o Francia? Attenzione alla Francia, sotto traccia, molto ben allenata da Deschamps, squadra giovane con grande talento, pronosticata da nessuno. Io la Francia la vedo in semifinale. Tutti ho rovinato i mondiali a tutti i francesi. Avere così. Intanto voi continuate a mandarci i vostri pensieri sul sito radio24.it, un minuto di file MP3 con la vostra voce, commentando un fatto della settimana, che questa settimana è, non ricordo più, qual è, Franco Piantanelli? Ah, eccolo, sì, il vostro ricordo mondiale. Ovviamente da adesso in poi arriveranno solo ricordi carichi di depressione. Fino a ieri arrivavano quelli dell'82, quelli del 2006, quelli del 70. Adesso arrivano i ricordi di tutte le disfatte possibili. Il tuo ricordo mondiale, Barbone Supremo? Nel senso disfatta? Nel senso di quello che vuoi. Qual è il tuo mondiale? Il gol di Baggio che passa sotto le gambe di tutti. Grande. Già detto grande. Qua in trasmissione con te, che c'era anche Zorro, ti ricordi? Vero. Sotto le gambe il di tutti. Il gol di Baggio sotto le gambe di tutti. Nigeria. Grazie a tutti, Franco Piantanelli, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudio Schiattone in redazione. Ci sentiamo domani dalle 2 alle 4. Ciao! Balotelli e...